ancora sai nell'aria. Ci siamo ancora noi, voglia e tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male. Sei la visione che mi circonda come l'aria che respiro, e non c'è smog sul foglio bianco, resta la mia biro. Rinchiusa in una gabbia di paura, non vuole che le mie parole inquinino quest'aria pura. Solo in preda a questa antica magia, strana alchimia, nuova mania, di cercare dentro il tuo ricordo qualche profezia, balia di una marea di verità sotto un vento di bugie. E tu sorridi in mezzo a tutto questo, tu che sei l'aria fredda la mattina presto, mentre mi vesto, riempimi la bocca col primo sbadiglio. Sei il sogno che comincia nel momento in cui mi sveglio. Lasciati respirare aria d'altitudine, quella che dà origine a vertigine ed inquietudine. E mentre osservo il vento muovere le nuvole, dipinge in cielo la tua immagine, scopro che per me sei aria, e ti respiro ancora, sai, nell'aria. Ci siamo ancora noi, voglia e tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male. E adesso barman, riempimi il bicchiere, metti qualcosa di tranquillo, poi vieni qui a parlare. Tanto già lo so che hai già capito che mi è capitato, il tuo bancone ne ha sorrette di persone messe in questo stato. Parlami degli amori che hai passato, ti parlerò del mio che è appena nato. Ti parlerò di lei, dirò cose che fra un'ora non ripeterei, che a lei non direi mai ok. Ora metti che ste frecce veramente sto cupido che le tira, ecco ha sbagliato mira. Ha colpito me e lei no, lei stanotte dorme con qualcuno che non so, io non dormirò. Succede o almeno dicono, in un film troverebbero poetico, romantico, una corda senso unico. Io mi vedo comico e rido di emozioni senza traiettoria, guardandole disperdersi nell'aria. Aria, e ti respiro ancora, sai, nell'aria. Ci siamo ancora noi, voglia e tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male. Ora veniamo noi signora che mi gira in testa, che ieri sera sei uscita col mio cuore in tasca. Labbra rosse di rubino, mio ricordo mentre bevo vino, mio compagno di San Valentino. Sei la regina di un ignaro re fra gli uomini, mia privata fantasia lascia che ti esamini. Occuperei la lingua in approfondite indagini, in parti del tuo corpo che nemmeno immagini. Ma l'aria è di tutti e di nessuno, posso respirarla e sporcarla con del fumo. E ti respiro anche quando tiro dalla mia Marlboro, soffiando gioco a fare anelli con i tuoi capelli d'oro. Dura, messo male da paura, barman dammi tu la cura, stasera sono fuori gara. Prendiamo la memoria di una storia senza gloria, una febbre d'amore necessaria come aria. E ti respiro ancora, sai, nell'aria. Ci siamo ancora noi, voglia e tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male.